Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. E buongiorno a tutti, eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Cominciamo una nuova mattinata insieme, il buongiorno nel weekend di Radio 24, si può fare. Comincia con una veloce rassegna stampa, un'occhiata ai giornali di oggi che ci accompagna verso il GR delle 8. Poi comincerà il programma vero e proprio. I nostri contatti si può fare @ Radio 24 su Facebook, 349-238-6666 per i vostri messaggi anche su WhatsApp, e poi l'account su Twitter è @ si può fare 24, mio @ Ale Maurizi. Vai, iniziamo. E allora, i titoli dei giornali di oggi sono in gran parte dedicati agli sviluppi della vicenda delle ONG e dei migranti. Dopo le dichiarazioni del procuratore capo di Catania Zuccaro e con insomma, il Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno dei magistrati, che annuncia che si occuperà della questione, quindi potrebbe esserci una sanzione per aver fatto queste dichiarazioni, quantomeno per aver espresso anche delle opinioni personali. Ma c'è chi difende il procuratore Zuccaro, naturalmente Forza Italia, il Movimento 5 Stelle, il ministro Orlando, che ieri ha fatto una mezza giravolta prima dicendo se ci sono dei comportamenti da punire verranno puniti, ma se ne occuperà il CSM. Poi però ha offerto aiuto al procuratore, ha detto siamo a disposizione se la procura di Catania ha bisogno di strumenti per operare, perché sotto traccia, lo sappiamo, c'è la questione delle fonti che il procuratore Zuccaro avrebbe a disposizione, queste intercettazioni telefoniche che però non possono essere utilizzati per questioni anche di diritto internazionale. E quindi l'assist in qualche modo il ministro Orlando, ministro della giustizia, alla procura di Catania su questa questione che domina appunto i giornali di oggi, insieme all'altra notizia che è quella in qualche modo parallela della visita del Papa in Egitto, una visita importante. Nessun Papa era mai entrato per esempio all'università di Al-Azhar, che qualcuno definisce il Tempio dei Sunniti, un luogo importante per l'Islam e per l'Islam sunnita in particolare, dove c'è stato questo abbraccio con il grande imam. E partiamo da qua, dalle foto sui giornali. Corriere, il messaggio di Papa Francesco, il viaggio in Egitto, il Papa e l'abbraccio con il grande imam, isolare i violenti. La stessa, quasi lo stesso scatto per la prima pagina di Repubblica, Egitto, il bacio della pace tra Francesco e il grande imam. Il Papa all'imam, isoliamo i violenti, è il titolo della stampa. Vediamo come l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, diciamo, riprende questa notizia. La foto è la stessa, l'abbraccio tra il Papa e l'imam, storica visita ad Al-Azhar segnata dall'abbraccio tra Francesco e Al-Taib con il copto Tawadros, preghiera nella chiesa colpita dal Daesh. Mai fede violenta, è questo il titolo. Il Papa in Egitto, smascherare chi usa la religione per altri fini, insomma, ecco. E questi, diciamo, sono i titoli principali sulla vicenda del Papa. E vediamo velocemente all'interno dei giornali qualche commento sull'utilità poi reale di questa visita, come è andata, come non è andata, al di là del fatto simbolico che appunto per la prima volta un Papa sia entrato all'università di Al-Azhar, l'abbraccio con il grande imam, scrive intervistato dal Corriere il teologo Bruno Forte, che è anche arcivescovo di Vasto e Chieti. Penso pensa sia stato compreso il messaggio del Papa. Le immagini trasmesse sono state di straordinaria accoglienza. Era come se in Papa Francesco non si vedesse solo il leader religioso della comunità cattolica, ma un simbolo universale di pace. Nel senso di evidenziare con la sua autorità morale universalmente riconosciuta la fraternità tra tutti gli uomini e il dovere di costruire la pace al di sopra di ogni interesse. Il punto, secondo Monsignor Forte, questo teologo, è che il Papa è riuscito a proporre il dialogo senza rinunciare all'identità cristiana e ai valori evangelici. Non si può dialogare rinunciando a ciò che si è e si crede. Il Papa viene accusato da alcuni di volere il dialogo e la pace a tutti i costi, in realtà non rinuncia in niente all'identità cristiana, si è dichiarato chiaramente discepolo di Cristo che ha dato la vita per tutti, contro ogni logica di violenza, e questo è un commento. Poi c'è per esempio la questione dei cristiani d'Egitto, dei copti, come se la passano, l'intervista al parroco copto del Cairo, padre Marcos, su Repubblica. Avete paura in questo momento a vivere in Egitto? No, nessuna paura, siamo qui per testimoniare la nostra fede. Certo, siamo molto tristi per i recenti attentati che ci hanno davvero colpito il cuore, ma sappiamo che il nostro governo, il governo egiziano ovviamente, ci protegge e ci farà vivere a lungo nella pace. Papa Francesco ci sta aiutando in questo. Crede che la comunità copta possano avere un futuro in Egitto? Gli attentati sembrano invece volervi spingere a lasciare il paese. Noi continuiamo a sperare, scrive padre Marcos, parroco copto di Santa Maria del Giardino in Egitto. Noi continuiamo a sperare al Cairo, scusate, noi continuiamo a sperare e siamo convinti che la pace sia il nostro cammino e il nostro obiettivo. Certo, siamo minoranza insieme a tante altre minoranze del paese, ad esempio i cattolici, ma sappiamo che il futuro si può costruire insieme. E va bene, poi che cosa pensa dell'incontro avvenuto ad Al-Azhar? Ne sono contento, Al-Azhar significa moderazione e oggi è proprio la moderazione tra noi a rendere i rapporti più fraterni. Siamo molto felici per la visita e per la conferenza di pace, apprezziamo tutti i principi che il Papa propone, il suo indomito lavoro per la pace. E insomma, questa è la tematica del Papa, che poi si trova un po' da tutte le parti, su tutti i giornali, ma il tono dei commenti più o meno è questo. Dicevamo, però, della vicenda ONG Migranti, che è l'altra grande vicenda, che quindi lasciamo il Papa al suo viaggio in Egitto, che prosegue anche oggi. La vicenda sollevata dalle parole del procuratore capo di Catania, Zuccaro, che in televisione ha parlato di ONG finanziate addirittura da scafisti. E allora leggiamo qualche titolo dei giornali prima di leggere qualche approfondimento, perché è proprio anche dai titoli che si capisce come questo sia un argomento che divida molto profondamente l'opinione pubblica, i giornali, i politici, eccetera, eccetera. Il Corriere scrive con un titolo d'inchiesta: chi muove le navi per soccorrere i migranti in mare? L'articolo di Giovanni Bianconi e Fiorella Sarzanini. Si indaga sul meccanismo che fa scattare i salvataggi. Spesso quando dai migranti partono le chiamate satellitari di soccorso, le navi delle ONG sono già nei pressi dei barconi. C'è chi, come per esempio Libero, quante menzogne sui profughi, indagano il giudice e non gli scafisti. E questo è il paradosso, secondo Libero. Ci tocca recuperare gli immigrati tra le onde, mantenerli, subirne le intemperanze. Le nostre istituzioni, invece di investigare sugli affari tra banditi e ONG, aprono un'inchiesta sul PM che denuncia il marcio. Siamo pazzi? Mattarella conferì un'onorificenza alla volontaria accusata di trafficare con i clandestini. E questo è l'interrogativo del giornale di Libero, che affida poi a Vittorio Feltri un commento su questa questione. Anche il giornale ha titolo dello stesso tenore: il governo sapeva tutto e ora vogliono insabbiare, patto tra ONG e trafficanti. Ora, qui si dà proprio per scontato che ci sia questo patto, che ci sia un accordo, che ci sia una intenzione comune tra le ONG e i trafficanti. Sicuramente l'intenzione comune è quella di delle ONG e dei trafficanti di far arrivare in un luogo sicuro i migranti. Questo è evidente, perché è chiaro che le ONG fanno da questo punto di vista il gioco dei trafficanti. Quando a perlustrare i mari c'erano più pattuglie di adesso, pattuglie militari, pattuglie internazionali, e quello che l'Italia poi ha sempre chiesto all'Europa, c'erano meno navi delle ONG. Ma al di là di questo effetto, diciamo, ottico, si dà per scontato che ci sia una intenzione, un accordo segreto, patto ONG trafficanti, scrive il giornale. Il governo sapeva tutto e ora vogliono insabbiare. CSM diviso, prova a zittire il PM di Catania, si spacca pure il Vaticano. Già, perché anche il Vaticano è interessato da questa questione, con una presa di posizione dell'Osservatore Romano, che potrà sorprendere, ma ce la ricorda il Fatto Quotidiano. Non solo i PM, l'Osservatore Romano dice: non bisogna negare il problema, indagare sui fondi. La Chiesa, due punti, alcune ONG fanno da taxi sulla pelle dei migranti. E questo è. Andiamo a vedere, per esempio, all'interno del Corriere della Sera, proprio per la questione del CSM, l'organo di autogoverno della magistratura, che è anche, come sapete, ricco di elementi che non sono dei magistrati, ma sono sostanzialmente dei politici, quindi è facile immaginare come la vicenda vada politicizzandosi e dividendosi, come accade anche sul fronte politico, con Forza Italia e il Movimento 5 Stelle che difendono Zuccaro e insomma il centrosinistra, la sinistra che lo critica, il centrosinistra più perplesso, con, abbiamo già ricordato ieri, la mezza giravolta di ieri del ministro della giustizia Orlando, che prima ha parlato di possibili sanzioni nei confronti di Zuccaro, ovviamente da parte del CSM, non lui, ma insomma. E poi però ha offerto sostegno del Ministero alla Procura di Catania, scrive il Corriere. I laici divisi come i partiti, la scelta difficile dei magistrati. Zuccaro, nominato un anno fa, decidere se aprire un fascicolo non sarà semplice. Tra le toghe prevale l'idea che svelare in TV non tanto il contenuto delle indagini, al momento piuttosto scarso, visto che lo stesso Zuccaro parla di informazioni non utilizzabili in una inchiesta penale, quanto le proprie opinioni, comunque derivanti dal lavoro che svolge, non sia questo il comportamento ideale per un procuratore della Repubblica. La decisione a questo punto, se aprire o meno un fascicolo su questa vicenda, non sarà semplice, ci sono ragioni a favore e contro. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. 349-238-6666. Allora, eccoci qua di nuovo, buongiorno e ben ritrovati cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. E dicevamo appunto come la vicenda ONG migranti divida il fronte politico. A sinistra c'è diffidenza e critiche aperte nei confronti del PM Zuccaro. Il Manifesto scrive, con un titolo dei suoi titoli, con la foto di Beppe Grillo col microfono in mano: Ghostbusters, cacciatori di fantasmi. Cioè, secondo la teoria del Manifesto, è evidente che stiamo parlando di caccia alle streghe o di caccia ai fantasmi, nella migliore delle ipotesi, da parte del Movimento 5 Stelle e anche del PM Zuccaro, su questa presunta alleanza tra le ONG e i migranti. Le denunce del procuratore di Catania finiscono al CSM. Nonostante l'assenza di prove, i 5 Stelle intensificano l'attacco alle ONG che salvano i migranti. Grillo e Di Maio accusano il governo di minimizzare i rischi di convivenza con i trafficanti, e l'Osservatore Romano si accoda. E va bene, questa era l'ultima segnalazione su questo fronte. Vi voglio invece segnalare delle altre vicende, delle altre notizie che sono sulle prime pagine dei giornali di oggi. Intanto una vicenda di cronaca che è piuttosto pesante e per una volta, come dire, arriva prima che sia tardi, forse, l'appello di una donna di Torino che chiede ai giudici di tenere l'ex marito in carcere e non agli arresti domiciliari, perché lei dice apertamente che ha paura di essere uccisa da lui. Torino, 15 denunce, mi ucciderà quella donna che chiede di salvarla dall'ex marito. La vendetta non finisce mai, persino quando si realizza, figuriamoci se è l'unico pensiero rimasto a chi si considera defraudato di tutto il resto. E la storia è quella di Elena Farina, che chiede disperatamente che tengano in galera quell'uomo che l'ha picchiata, minacciata, ha tentato di uccidere lei e i loro figli, quell'uomo verso il quale ha sporto 15 denunce, che è già stato arrestato, ma poi, e lei non si spiega il perché, viene sempre rilasciato. Tenetelo in carcere, chiede, e intanto immagina che dovrà vendere tutto, il suo bar, la casa, andarsene da Torino, scappare di nuovo come ha tentato di fare cambiando casa, provando a sparire dai radar di quell'uomo, Luigi Garofalo, 46 anni, invano. Lui infatti la ritrova sempre, ricomincia sempre tutto dallo stesso punto, la vuole morta, lei e i loro figli, non c'è una soluzione, dice. Uno dei due deve scomparire, o lui resta in carcere per sempre o noi ce ne andiamo da qualche parte dove lui non ci può trovare. La disperazione di questa donna. Il commento di Elena Stancanelli dice: i giudici non dovrebbero rimetterlo in libertà, senza dubbio, ma gli avvocati fanno il loro lavoro. L'uomo dovrebbe stare ai domiciliari e non avvicinarsi a Elena e ai suoi figli, ma non lo fa. Appena può, torna lì, armato, pronto a fare l'unica cosa che gli resta da fare nella vita, vendicarsi. E quindi come fare, come prendere atto di questa situazione che quasi senza via di uscita, perché prosegue l'articolo su Repubblica, noi garantiamo i diritti di tutti, anche di quest'uomo che ha diritti agli arresti domiciliari, noi non spariamo ai ladri, perché è questo che fa uno Stato, una società civile, solo che poi ci fermiamo, non sappiamo più che fare, non abbiamo soldi, energia, capacità culturali per immaginare una soluzione, è questo il punto, ci vorrebbe una soluzione diversa, no? Un'alternativa, strutture capaci di aiutare, creare un'altra possibilità, inventare una nuova vita. Non sappiamo prenderci cura di chi è disperato, né di Elena né di Luigi Garofalo. Noi non siamo capaci di disinnescare l'ossessione della vendetta, la follia di un uomo che, lasciato da una donna, pensa solo ad ucciderla. E va bene, poi insomma, conclusione, lo mettiamo in galera per un po' e poi lo lasciamo libero, e questo è inutile e pericoloso. La necessità quindi di trovare delle soluzioni diverse che insomma, richiedono impegno, dispiegamento di risorse, strutture, però su questo si deve, si può lavorare, non può esserci un'alternativa secca tra la sentenza di un magistrato e il nulla. Quest'uomo ha diritto ai domiciliari, può stare ai domiciliari, deve però essere tenuto sotto controllo. Ma anche se fosse tenuto in carcere, prima o poi la sua pena finirebbe e uscirebbe. E cosa succede, come è già successo in passato? Lo sappiamo purtroppo benissimo. Fra due giorni si celebrerà, per chi ce l'ha o anche per chi non ce l'ha in un lavoro, il 1° maggio, la festa dei lavoratori. Allora Repubblica, in prima pagina, si incarica di fare così una fotografia, un'analisi di quella che è la situazione. No, rido perché è un argomento, questo sappiamo benissimo, che è argomento alla festa dei lavoratori, specialmente per tutti quelli che un lavoro non ce l'hanno, ce l'hanno precario, rischia di essere una specie di beffa, ma invece sembra che non sia così, perché il titolo è: lavoro delude, troppi precari, torni l'articolo 18, ma sì ai voucher. E però insomma, il sondaggio mostra che c'è una un'aspettativa intorno alla festa del lavoro, ancora viene vissuto come un momento di riflessione unificante attorno a un tema che resta importante, naturalmente forse il più importante per i giovani, ma non solo, per chi si deve costruire un futuro ma anche un presente. Il lavoro rimane, scrive Ilvo Diamanti, analista di Repubblica e sociologo, scrive, rimane un riferimento importante per la nostra società. Così la festa del lavoro del 1° maggio suscita sempre grande consenso. Lo conferma il sondaggio condotto nei giorni scorsi all'Osservatorio sul Capitale Sociale di Demoscope per Repubblica. Più di 2 italiani su 3 ritengono infatti che celebrare il 1° maggio abbia ancora senso. Celebrare il lavoro a questi italiani appare tanto più significativo perché si tratta di una risorsa sempre più scarsa e dequalificata. Una larga parte degli intervistati, oltre 7 su 10, afferma di non avere percepito la ripresa. semmai pensano che si sia allargato il lavoro nero, ancor più il lavoro precario, ne sono convinti 3 italiani su 4. Non c'è fiducia nemmeno nelle politiche e nella politica, nei risultati delle leggi approvate negli ultimi anni, meno di un italiano su 10 ritiene che il Jobs Act abbia prodotto effetti, meno di 1 su 10. È pochissimo, e questo dovrebbe fare riflettere il candidato vincente in pectore del PD, Matteo Renzi. Mentre l'abolizione dei voucher ha convinto quasi tutti gli intervistati, ma del contrario allargherà ancora di più il lavoro nero e precario. Il reddito di inclusione sociale invece per ora lo conoscono in pochi. Ci sono dei segnali positivi, le aspettative sul futuro, cresce la quota di lavoratori che scommettono su una situazione personale migliore nei prossimi anni, meno male. L'altro segnale in controtendenza riguarda la soddisfazione del proprio lavoro, molto elevata per il 55% del campione intervistato. Cioè, chi c'ha un lavoro, nella maggior parte dei casi, si ritiene fortunato, evidentemente si accontenta di avercelo, forse anche. Ma questo comunque è un segnale da tenere in considerazione. Che altro? In chiusura, l'apertura di Luigi Di Maio sulla legge elettorale, pronti a trattare con il PD, il secondo titolo principale di Repubblica, del Corriere, scusate. Sul premio possiamo discutere, il PD poi scelga tra noi e Berlusconi, legge elettorale, l'esponente del Movimento 5 Stelle, si può abbassare la soglia per ottenere il premio di maggioranza, il Legalicum, che è il sistema elettorale frutto delle correzioni della consulta, non è inscalfibile, dice Luigi Di Maio, che poi risponde anche a una domanda sul Grillo e Reporter Senza Frontiere, che ha messo Grillo tra i nemici della stampa. Personalmente siamo sorpresi che ci sia Grillo tra i problemi della libertà di stampa quando un premier, quando un ex premier possiede 3 televisioni e il premier ha nominato i vertici della RAI. Per noi c'è molto da fare, dobbiamo risolvere il conflitto di interessi e la lottizzazione delle TV pubbliche. E vabbè, dopo aver sciolto questi nodi, sono sicuro che ci sarà un rapporto più tranquillo con i media. Questa è la previsione di Luigi Di Maio. In prima pagina La Stampa, e chiudo, si incarica di ricordarci che da un mese va avanti le manifestazioni in Venezuela, nelle strade di Caracas, sfidando la dittatura. Da un mese l'opposizione manifesta contro Maduro. Miseria, bande armate e l'incubo della guerra civile. Ci fermiamo qua, è tutto. Si può fare, torna dopo il GR delle 8, a più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. E 16 minuti, buongiorno a tutti, da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Allora, 800 24 00 24, cominciate subito a prenotare il vostro intervento. Stiamo insieme in diretta fino alle 10. Carlo, Milano Monterosa. Sole, c'è un bellissimo sole, anche se è arrivato un po' di freddino negli ultimi giorni. Sì, è sì, stato sì. Freddo, però il sole è bello, quando c'è il sole va tutto bene. E va molto molto molto bene, infatti sentite che entusiasmo con questo sole che è alle nostre spalle. Ricordo che io chiedo a Carlo le previsioni del tempo, le previsioni è troppo, diciamo, lo stato attuale è una polaroid, quella che chiedi è una polaroid, perché lui è rivolto verso la finestra, verso l'esterno, può vedere quello che accade fuori dalla sede di Radio 24 Milano Monterosa. Io invece sono rivolto verso Carmelo Lauricella, con tanto di barba. Esatto, che detto così sembra che io abbia una posizione migliore, in realtà è l'esatto contrario, perché io non vedo la regia e quindi se sbaglio è anche perché proprio non so niente. Io poi vedo anche Claudia Schiattone, che adesso non c'è ma poi tornerà, e vedo tante altre cose, però non vedo fuori. 800 24 00 24, che poster avevate voi in cameretta? Vabbè. La domanda è questa. Ci arriviamo un po' lunghi, cari ascoltatori, però vi diamo la possibilità oggi di recuperare, visto che avete assistito al balletto di dichiarazioni di Michele Emiliano, che aveva Gigi Riva. Gigi Riva, Gigi Riva, prima, poi Yuri Chechi, perché come lui ha subito la lesione del tendine, ma lui ha saltato le Olimpiadi, invece Emiliano la campagna elettorale, esatto, una cosa minore, evidentemente, ma insomma, cioè, minore. E allora, forse è che Yuri Chechi aveva, sì, delle enormi possibilità di vincere quelle Olimpiadi, invece forse Emiliano un pochino meno, dico solo. O appena meno, e poi c'è Andrea Orlando. Però Emiliano sugli anelli, anche Emiliano sugli anelli deve essere... No, forse non è un bel vedere, ho sbagliato, ho cambiato idea. Secondo me sì, e poi vabbè, Renzi che cosa ha detto? Renzi aveva Roberto Baggio e poi Duran, credo, sì. Duran, sì, ce lo siamo segnati tutti. E tu chi avevi, sì, Alessio? Tu chi avevi? Che poster avevi? Io avevo Maradona, ragazzino, calcio, Maradona, avevo Falcao perché era romanista, e poi devo dire che avevo anch'io un disegno... Sono giocatore di una volta, così lo dico ai nostri, sì, ascoltatori, no, giovani. Proprio dimentica, no, Maradona ancora si sa perché l'hanno appena festeggiato, appena celebrato a Napoli. E poi avevo anch'io, lo devo ammettere, un disegno fatto da me di Berlinguer. Ero un bambino, beh, e mi colpiva questo signore che era appena morto, tra l'altro, cioè, morto in quegli anni, nell'84, che parlava a tutta questa gente, che queste masse, queste piazze piene, e mi affascinava. Anch'io ero un po', avevo un'infanzia un po' difficile, evidentemente. E tu cosa avevi, Carlo? Raccontano questi poster. Io, guarda, avevo un poster dell'Inter, sicuramente, e poi avevo un poster di Eugenio Montale, o meglio, non era un poster, perché me lo ricordo bene, era l'ultima pagina del Corriere della Sera, che aveva a tutta pagina l'immagine di Eugenio Montale, credo perché fosse qualche anniversario, o perché erano usciti i Meridiani, tutta la collezione, e mi ricordo che ce l'avevo. E tra l'altro era strano perché, essendo il poster di un giornale, mi ricordo una volta una ragazza che portai a casa e mi chiese: ma chi è, scusami, quello? Tuo padre? Mi chiese, e magari io nel panico dissi sì. Quindi volevo dire, molto, esatto, di dire che avevi il posto, esatto, di Montale. 800 sono il figlio di Eugenio Montale. 240024, cominciate, cari ascoltatori, a prenotare il vostro intervento. E chi avevate in cameretta? Il vostro poster. Poi ne abbiamo un paio belle da raccontare, ve le raccontiamo tra poco, perché ogni queste storie racconta, esatto, ti ho visto raccogliere informazioni, sì, sì, sì, tra le varie redazioni. Qui sappiate che se ci avete rivelato qualcosa a me, a Carlo, poco prima di andare in onda, verrete amichevolmente sbertucciati o sputtanati, si può dire, tra pochissimo. Vai. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no, no. Allora, non se lo può permettere Caparezza, ma non ce lo possiamo permettere in tanti. A volte il costo di alcuni farmaci, che è un costo esorbitante, altissimo. Per fortuna c'è il sistema sanitario che passa alcuni medicinali, ma anche quelli sono soldi di tutti noi contribuenti. Ecco allora che il Piemonte ha trovato un modo per risparmiare fino a 10 milioni di euro in un anno, facendo una cosa molto semplice, quella che facciamo tutti noi in farmacia quando ce lo ricordiamo: cerchiamo il medicinale equivalente, quello che il cosiddetto generico, quando è scaduto il brevetto, poi comprare l'equivalente costa molto meno. E con questo semplice trucco forse con un sistema più intelligente in realtà, perché noi non possiamo basandosi su questo, ma più intelligente, perché andando a chiederglielo prima che debbano mettersi a produrlo. Bravo. Comunque ce lo facciamo raccontare da chi lo spiega sicuramente meglio, che è Loredano Giorni, responsabile regionale dell'assistenza farmaceutica della regione Piemonte. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Agli ascoltatori. Allora, dicevamo, intanto se abbiamo detto giusto, un risparmio, poi adesso ci spiegherà anche il meccanismo, di 10 milioni di euro? Sì, su un solo farmaco questo è. Quindi su un solo farmaco. Attenzione. Sì, su un solo farmaco. Complimenti allora, intanto, così. Esatto, e diciamo anche, poi ci spiegherà anche questo nel dettaglio, che questi soldi che risparmiate lo annunciate subito, non vengono risparmiati spesi male, magari per pagare qualche cosa che non ha a che fare con la sanità, ma volete investirli sempre nella sanità. Chiaro, questo è un obbligo, che il fondo sanitario serve per la sanità, per cui dobbiamo investirli. Quindi, per esempio, per comprare anche farmaci molto costosi per curare alcune patologie. Comprare altri farmaci costosi, nuove tecnologie, tutto quello che può servire al sistema sanitario. Farmaci il cui brevetto non è ancora scaduto, per esempio. Farmaci il cui brevetto non è scaduto. Ecco, ci spiega come funziona il sistema appunto dei farmaci, dell'acquisto da parte della regione attraverso, c'è una società che organizza proprio le gare per l'acquisto dei farmaci, e in che modo quindi siete riusciti a ottenere questo risparmio, che tra l'altro è anche stato contestato da alcune case farmaceutiche, c'è stato un ricorso che però avete vinto. I vari ricorsi che sono stati, ma non su questa gara, su altre gare che abbiamo fatto, sia ai TAR che al Consiglio di Stato. Ma il problema è semplice: il problema è che i farmaci, come dicevate voi, sono coperti da brevetto, per cui è chiaro che il farmaco è prodotto da una ricerca, per cui l'azienda che ricerca c'ha l'esclusiva per un certo periodo, 10-15 anni su quel prodotto. Quando scade il brevetto, tutte le altre aziende possono produrre e commercializzare quel prodotto, con le stesse garanzie per l'utente di qualità del prodotto, del prodotto. In quanto non è che un'azienda si può permettere di la mattina scegliere di produrre un farmaco o quant'altro, ma deve essere autorizzata tutta una serie di controlli da parte del Ministero, sì, AIFA e quant'altro, per cui il prodotto è della stessa qualità. È chiaro, nel nostro caso, nel caso che è ribalzato sulla cronaca, era un prodotto, sì, dove noi avevamo una spesa in Regione Piemonte nell'anno 2016 di oltre 12 milioni di euro. Questo prodotto, come è scaduto il brevetto, è stato prodotto da varie aziende farmaceutiche, 4-5 aziende farmaceutiche, e dopo pochi giorni che questi prodotti erano in commercio, noi abbiamo fatto una gara e l'abbiamo aggiudicata con lo sconto del 93-94-95%. E di qui il risparmio appunto di 10 milioni solo su un farmaco. Sì, però è il metodo che, come ha giustamente spiegato, in realtà nel momento in cui scade il brevetto e quindi altre case farmaceutiche dicono adesso io mi metto a produrlo, quello è il momento in cui voi agite, andate dalle altre case farmaceutiche e dite: noi, siccome ne compreremo 100.000 scatole, che prezzo ci fate a noi? E ognuno quindi fa una gara al ribasso, e questo che noi ovviamente non possiamo fare come singoli, e invece può fare il nostro servizio sanitario nazionale, è molto bello, diciamo, è l'unione fa la forza, esatto. È come se se lei fosse colui che compra le medicine per noi 60 milioni di italiani, ed è bello che nel momento in cui riesce a spuntare un prezzo minore, noi ne siamo molto contenti. Questo, le volevamo fare i complimenti. E tra l'altro siete tra i primi forse in Italia, o tra i pochi, che siete riusciti con questa modalità a ottenere questo spunto, è vero? Ma no, guardi, più o meno viene fatto in tutte le regioni. Questo fatto qui è ribalzato alla cronaca per l'entità dello sconto che siamo riusciti a ottenere, per cui lei capisce bene che un farmaco che costava prima 2.000 euro a confezione ora costa sui 50-60 euro. Senta, però diciamo anche una cosa: che i ricorsi che avete vinto li avete vinti proprio anche sulla questione del principio attivo, perché qualcuno potrebbe avere a recepire, ma è proprio lo stesso farmaco? È proprio così? E invece è proprio questo il punto: c'è una remunerazione della ricerca, del brevetto, che è anche giusto che le case farmaceutiche abbiano finché il brevetto non scade, dopodiché, perché hanno investito un sacco di soldi. Dopodiché liberi tutti, questo prevedono le regole, e voi lì intervenite con un principio attivo che è lo stesso, questo possiamo dirlo. Sì, è chiaro, su questo il problema che viene da porsi, la domanda che viene da porsi, che me la pongo anch'io, ora sono qui per dare risposte, non per porsi domande, ma è quello: in questo caso noi questo farmaco, che a livello nazionale ha fatturato per anni e anni 150-160 milioni di euro, se è vero quello che è vero, che si è aggiudicato con lo sconto del 95%, verrebbe tradotto nel senso che dire che io per tutto questo periodo il 95% di questo di questa spesa che io ho ottenuto è andata a finanziare la ricerca. È giusto che sia il 95%? Questa è la domanda un po' che viene da porsi, che forse è di interesse. Certo, certo, giusto. Io le volevo chiedere un'altra cosa. Siccome sappiamo che c'è il grosso problema di molti medici che magari prescrivono comunque il farmaco originale e quindi il paziente non sa se può prendere il generico o meno, ho letto che è stato introdotto questo aspetto, tra l'altro proprio da lei, che se il medico ritiene che per il suo paziente sia fondamentale acquistare l'originale, può continuare a prescriverlo, ma lo deve motivare sul piano scientifico. Che cosa certo. significa motivare sul piano scientifico il bisogno di usare un farmaco originale? Ma che cosa significa? Lei ha detto perfettamente, mi fa piacere, molto al corrente, ha letto bene quello che abbiamo fatto. La ringrazio. Il problema è questo: se io ho un farmaco dove una compressa mi costa, nel caso che in esame che stiamo affrontando, mi costa 15 euro, la stessa compressa dove tutte le autorità europee e nazionali mi dicono che l'altro farmaco che mi costa invece che 15, 0,47 euro, ha la stessa qualità in termini di qualità, di principio attivo e di tutto, è chiaro che il medico, se mi dice io voglio utilizzare quello da 15 euro, siccome sta allocando risorse pubbliche, mi deve dire qual è il motivo. Ma qui è un modo per dire che non esiste motivo in realtà, perché se sono identiche le molecole, dal punto di vista scientifico non esiste motivo. Non esiste, cioè, non esiste il motivo, che le devo dire, può darsi che il paziente fragile, cioè il paziente con più di patologia, che ha delle problematiche e quant'altro, il medico dica non è utile il sostituire in quanto potrebbe creare scompensi a livello psicologico o quant'altro, perché c'è una fidelizzazione del farmaco verso il quant'altro. È chiarissimo, Chiaro. Ha reso più difficile il ricorso all'obbligatorietà dell'originale. Senta, nel congratularci ancora con voi della Regione Piemonte, ma anche con le altre regioni che magari in piccolo sono riuscite in questa impresa di far risparmiare soldi ai contribuenti che poi vengono reinvestiti nella sanità in maniera magari più efficiente, più produttiva, e anche nel girare agli ascoltatori all'800 24 00 24, la domanda, come sempre, se questo si può fare, della Regione Piemonte vi ha in qualche modo convinto. Volevo però fare un'altra domanda che riguarda un pochino più l'attualità. Approfitto di avere al telefono il responsabile dell'assistenza farmaceutica della Regione Piemonte per la questione che riguarda il fumo, la cura del cancro, sollevato dal ministro Lorenzin, che ha parlato di differenze tra le regioni, tra regione e regione, nell'accesso alle cure, e ha detto che questa cosa non ci deve più essere. A cosa si riferisce? Lei ne ha un'idea? Ci sono cure a cui non tutti hanno accesso nelle regioni italiane, per esempio per quanto riguarda la prevenzione e la cura del tumore al polmone, per esempio? No, assolutamente no. Guardi, io le posso dire, per quanto riguarda il mio ambito, ma anche negli altri ambiti, possiamo essere tranquilli che l'accesso al farmaco è uniforme su tutto il territorio. E allora cosa aveva in mente, secondo lei, il ministro, che non ha poi aggiunto, non ha specificato più di tanto questa sua affermazione? Ma sa, il problema a volte è il problema anche delle lungaggini, cioè quando un farmaco, per rimanere nel settore farmaci, un farmaco esce, un farmaco nuovo, c'è quella regione che è in grado di contrattualizzare il prodotto con l'azienda produttrice nel giro di 15-20 quindi giorni. Può essere la novità che non c'è, che vuole due mesi, sì, per cui ci sono dei ritardi in partenza, quant'altro. C'è delle regioni dove mettono il discorso nel prontuario, si mette o non si mette nel prontuario regionale, perché vedi anche il discorso dei farmaci, a volte c'è un nuovo farmaco, ma bisogna vedere se è nuovo se è nuovo nel senso che ha delle innovazioni oppure è nuovo perché c'è anche lui, c'è un Me Too per sì, quindi può essere sì, che in realtà la Lorenzin sì. si riferiva più alla questione della diagnostica, perché faceva l'esempio che dicendo c'è una regione con 5 milioni di abitanti che ha solo due PET che funzionano per mezza giornata, e si sta parlando del Lazio, quindi parlava del fatto di dire che ci sono regioni come la Lombardia che hanno molte più possibilità di diagnostica e altre che sono più indietro. Il discorso delle liste d'attesa, c'è delle regioni che hanno liste d'attesa di 6 mesi, regioni che hanno liste d'attesa di 2 mesi o di 30 giorni, capisce bene? Certo. È una diversità rispetto alla prestazione. È un aspetto molto importante, naturalmente. Sono modelli organizzativi in qualche certo. modo. Sì. Sono modelli organizzativi e io insisto, credo anche che dipenda dal fatto di poter spendere le risorse che ci sono in maniera più razionale, più intelligente. E questo esempio qua della Regione Piemonte che riesce a risparmiare su un solo farmaco 10 milioni di euro proprio grazie al ricorso al farmaco equivalente mi sembra una ottima buona pratica. Noi la ringraziamo, Loredano Giorni del assistenza farmaceutica del Piemonte, grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24, cari ascoltatori, se questo si può fare vi ha convinto, chiamateci e anche se volete raccontarci voi che poster avevate in camera vostra, i vostri poster, siamo curiosissimi, vogliamo sapere che cosa, quale volto, quale viso sì. vi sorrideva dalla vostra cameretta di ragazzi o ragazze. C'è un'ascoltatrice di cui voglio leggere subito il messaggio, che è Anita, che dice: a 16 anni in camera avevo un poster di Charles Bronson, uno di Don Bucky e uno di Bobo Boninsegna, cioè tre personaggi molto diversi, come poi capita a tutti noi. Anch'io avevo Maradona, ma avevo anche Madonna a fianco, e tre uomini che avevano la qualità che avrei voluto trovare nel mio uomo ideale: forza, protezione, dolcezza e sportività. Poi dice Anita: ahimè, ho trovato un marito che non aveva nessuna delle tre e mi sono separata. Ma il mio uomo ideale non l'ho mai più trovato. Allora io ti leggo: avevi tutti degli schiavi troppo alti, forse, Anita. Tutti schiavi del politicamente corretto. Sì. Nessuno col poster di Sabrina Salerno come me? Max da Pinerolo. Beh, io ho ammesso, avevo Madonna che all'epoca era una bellissima giovane ragazza. Sì, insomma, diciamo Madonna, Sabrina Salerno, va bene, avanti. 800 24 00 24, tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 8:38 minuti. Allora, un po' di messaggi al 349-238-6666. Ugo da Modena aveva Adriano Panatta e Bernard Russi. Discesa libera, ha specificato, perché in effetti nessuno adesso ricorda più questo sciatore. No, non ricordo quel poster, non ce l'avevo, mi sa che l'avevo scambiato con mio fratello per qualcos'altro. Oppure nel 78 a 13 anni Giuseppe da Pistoia avevo il poster dei Ramones, gruppo britannico credo di punk rock, e Erwin Rommel. Aiutatemi, chi era Erwin Rommel? Bah. Ma Rommel il generale tedesco? Non credo. La volpe del deserto era Rommel, se non ricordo male. Cosa avevate voi nella vostra cameretta e perché, soprattutto? Perché questo ci serve per poter poi scegliere l'intervento che ci piacerà di più, perché non si può scegliere tra Gigi Riva e Boninsegna, no? Dovete dirci anche un aneddoto, perché Fabio da Brescia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, io avevo in camera il posto di Roberto Bettega. Mitico ala della Juventus e della Nazionale, attaccante. Lo dico per i meno anzianotti come noi, Per gli amici Bobby Goal si chiamava. Bobby Goal. Sì. Poi avevo la Juventus 78-79. Sì. E avevo il posto dei Queen. Dei Queen. Sì. Ah, dei Queen. Grandissimi Queen, quindi avevi insomma una bella triade. Te la ricordi che la formazione della Juve del 78, più o meno? Perché quelle formazioni lì, quando hai 8, 9, 10... Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Tardelli... attaccante, no, io ricordo bene, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek, però quello era già 83-84. Sì, quello era... Vabbè, dai. Irdis... C'era Virdis, se non mi ricordo male. Sicuramente. C'era Causio. E forse c'era l'ultimo Morini. Vabbè Fabio, sei andato abbastanza bene, i primi 6 o 7 l'hai detti così a botta, va bene, poi chiaramente subentra la memoria quella successiva, perché sì, tu quella... lì confina con quella famosa nazionale poi dell'82 che era mezza, sì, Juventus, esatto. Sì, Zoff, beh, Gentile, Cabrini, e quella era la stessa, sì, l'attacco era lo stesso. Sì, che mancava solo, che c'era solo Collovati, Antonioni, che c'erano, che erano quelli un po' fuori Juventus. Va bene Fabio, ottimo, ti iscriviamo al concorso per ora, grazie per averci chiamato, e, io l'ho detto sì che avevo anche Madonna, sì. Ce l'hai già detto, tre volte, tua moglie credo che inizierà, forse telefona adesso. Ha detto Claudia Schiattone che in effetti io avevo in camera Dio e la Madonna, perché avevo Maradona e Susanna Ciccone in arte Madonna. No, Susanna Veronica. Stefano dalla provincia di Siracusa, buongiorno. Allora, Stefano? Io sì, vi sentite? Sì, certo. Sì. Allora, io come poster avevo Albert Einstein che faceva la linguaccia. Bellissimo. Celebre. Una famosissima fotografia. Celebre in bianco e nero, ovviamente. Sì. In bianco e nero, perché praticamente nel 78, se non sbaglio, era il 100° anniversario della nascita. E quindi fecero tutta una serie di trasmissioni, Piero Angela, su Einstein, la relatività e tutte queste cose qua, per cui io mi innamorai di questa cosa, presi questo poster. Ma eri un ragazzino, quanti anni avevi? Avevo 16 anni. Sì, bello innamorarsi a 16 anni di Einstein. Poi è andato tutto bene nella tua vita, non hai avuto ripercussioni? No. E poi sì, riuscii a portare anche questa stessa foto in classe. Riuscì a convincere i miei compagni che avevano altri interessi, dico ce la mettiamo questa, i professori accettarono di mettere questo poster di fronte al crocifisso, quindi dall'altra parte. Stefano, per ti dedichiamo vedevo... la bacchiana colonna sonora di Quark. Visto che hai citato Piero Angela. Esatto. Va bene, va bene. Poi non so se potevo intervenire sul discorso dei generici. Se vuoi, prego. Sì. Ecco, allora io poi ho lasciato perdere l'astronomia perché a 16 anni poi mi comprai pure un telescopio e ho deciso di fare il medico. E quindi sono a contatto tutti i giorni con questi farmaci. Allora sì, io per me, per mia moglie, per mia figlia non ne compro. Di generici? Di generici. E come mai? Come mai, giusto? Perché non vorrei entrare nello specifico di cosa faccio, ma diciamo che nel mio mestiere controllo le persone tutti i giorni, sì, e vedo la differenza tra quelli che prendono i farmaci che noi chiamiamo brand, cioè col marchio, mm-hmm, certo, e quelli che prendono i generici. Perché? Perché il generico probabilmente ha il principio attivo, anche se per legge può averne fino al 20% in meno, mm-hmm, ma come due persone non cucinano allo stesso modo, non solo sono gli ingredienti, bisogna vedere anche come vengono mescolati. No, però mi scusi, ma lei è un medico? Lei è un medico? Esatto, sì, no, nel senso che, no, nel senso che dire che il principio attivo è lo stesso, poi possiamo parlare di eccipienti, perché sennò no, rischiamo solo, di no, dare no, un'altra... Cioè, non è solo gli eccipienti, la compressa deve essere fatta in modo da sciogliersi nel posto giusto. Ci sono dei generici in cui la compressa io la vedo nelle feci. Per cui il principio attivo è dentro, ma entra attraverso l'organismo ed esce. Ed è una cosa che purtroppo in tanti notiamo. Va allora, bene, io, che dire Stefano, lei è un medico, altri medici hanno punti di vista diversi, però naturalmente esatto, accettiamo, no, anche nel senso che è giusto così, poi ognuno si affida. Però, diciamo che tendenzialmente sì, i generici sono lo stesso, soprattutto per un certo tipo di farmaci sui quali non è così problematico. Tendenzialmente è lo stesso, poi che ci siano casi di case farmaceutiche che producano cattivi farmaci generici, questo ovviamente è un problema e quei farmaci non vanno acquistati. Però sul generico e non generico non starei a dire che sono due cose completamente diverse. Stefano, ti ringraziamo, io non mi esprimo perché non ne ho la più pallida idea, mi affido all'opinione degli esperti. Abbiamo appena parlato con il responsabile dell'assistenza farmaceutica del Piemonte che grazie all'acquisto di farmaci equivalenti ha ottenuto un risparmio di 10 milioni di euro da investire nella sanità. Questa è la notizia da cui siamo partiti, 800 24 00 24 che vi chiediamo, come ha fatto anche poco fa Stefano, di commentare. Allora, volevo leggere oltre ai vostri post, esatto, un messaggio, me lo sono... Ah sì, eccolo qua, c'è un ascoltatore che si lancia. Io a 15 anni in camera avevo la locandina del film Mondiali con Cicciolina e Moana. Io questo film me lo devo essere perso da qualche parte, non che i titoli di questi film siano indimenticabili, però questo film... Beh, è un film con Moana, magari è un film che anche se hai visto non vuoi dirci che hai visto. Un film d'azione, vogliamo esatto. dire. Esatto. Poi aveva Bob Marley pure e Iron Maiden e quant'altro. Matteo, grazie, però devi chiamarci 800 24 00 24, tra poco. Avrete forse riconosciuta che cos'è? La sigla di Montalbano che è ancora in onda di lunedì, o sono finite le repliche? Sì, sta andando avanti. Lunedì scorso c'era in televisione il super record di ascolti, naturalmente. Allora, di che cavolo stiamo parlando? Allora, Camilleri non vuole che si usi la parola museo di Montalbano per quello di cui stiamo parlando, però la casa di produzione offre di lasciare praticamente tutto il set allestito con le stanze dell'ufficio di Montalbano là dove viene girato la fiction, e quindi potrebbe diventarne sostanzialmente un museo o un punto d'attrazione, per turisti ad alimentare questa nuova cosa che è il cineturismo, cioè andare nei luoghi dove vengono girate fiction, film. Però c'è un però. Perché? Che è nuova per l'Italia, che poi è nuova per perché l'Italia, comunque ma in America, persone che vanno Hollywood, a New York sì. a vedere i luoghi delle fiction, i luoghi dove si è girato Sex and the Bravo. City, il bar, è normale, è storia. E invece da noi è polemica, c'è cioè polemica anche su questo, perché qualcuno non vorrebbe concedere quei locali per il museo di Montalbano. Ne parliamo col sindaco di Scicli, che abbiamo convocato naturalmente subitissimo, Enzo Giannone, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco. Non poteva, come si fa a fare polemica su Montalbano? Montalbano che mette d'accordo tutti, piace a tutti, invece no. Quindi in questo caso piacerà magari ai dirigenti della CGIL di Scicli, piacerà Montalbano, però dicono questi locali bisogna lasciarli perché hanno una funzione storica diversa. Beh, va detto che era l'ex camera del lavoro, però non perché sennò non si capisce da dove parte la polemica. Certo. Ce lo spieghi lei, Giannone. Guardi, poi parliamo. Sarò molto, sì. molto conciso. Allora, intanto noi dobbiamo come città, come Scicli, ma anche in generale come il sud-est della Sicilia, io penso che dobbiamo tantissimo alla fiction tratta dai libri di Camilleri. Montalbano è stato un grandissimo vettore per far conoscere. E va bene, fin qua ce lo immaginavamo, quindi, ecco. Quindi sì. Questo è, diciamo, è quanto. Lei tra l'altro diciamo una subito, giusta gratitudine è tra le persone favorevoli, anzi vuole che questo museo si faccia. Sì. No, devo dire anche vicendevo la cosa, cioè nel senso che la produzione è stata messa sempre nelle condizioni ottimali per poter utilizzare i luoghi bellissimi. Va bene, ma questo facciamolo dire alla produzione. Però è giusto, dice, perché anche Scicli ha dato tanto a Montalbano. Mi dice però perché c'è polemica sulla questione del museo. La polemica, diciamo che non è una vera e propria polemica. Questa discussione nasce perché il luogo dove c'è il set del commissariato, ecco. che è stato peraltro dall'ultima produzione lasciato intatto, è stato lasciato lì montato, è quello, è sì. un luogo storico della città, è la ex Camera del Lavoro. È quello che diceva Carlo poco fa, esatto. Esattamente, in cui diciamo dagli anni 40, subito dopo la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, ha trovato casa, diciamo così, il movimento contadino, il movimento operaio fino a un certo punto, e poi è diventato uno dei luoghi dove si sono svolte storicamente assemblee, convegni, incontri vari, cioè una sala della città. A dire il vero, adesso da un bel po' di anni questo non avviene più perché la Camera del Lavoro si è trasferita altrove. Ecco, è questo che volevo arrivare. C'è un'altra sede, non è che si tratta di sfrattare, la CGIL, e non è che vogliamo sfrattarli e lasciarli senza una sede. La CGIL ha già un'altra sede, però comunque dice che quei luoghi lì hanno un valore che non si concilia con questa cosa del Museo di Montalbano. Quindi c'è questa critica. Però, Sindaco, lei è confidente che si possa trovare una soluzione? Ma certamente che si troverà una soluzione. Diciamo, in democrazia si discute, no? Adesso discuteremo la questione. Ma chi è il proprietario di questa sala? Il comune? È il comune, sono i bassi del comune. Noi già mettiamo, diciamo, a disposizione della produzione questi locali. La mia stanza, cioè l'ufficio del sindaco del comune e l'ufficio del questore, in cui io di fatto non entro più perché è una meta continua di visitatori. Alla sua stanza? Sì, anche quella viene visitata dai turisti, assolutamente. E nella sua stanza diventa l'ufficio del questore di Montalbano. Il sindaco di Scicli, diciamolo pure, non ha un ufficio, io non ho un ufficio. Ma no, adesso tra l'altro mi va anche bene perché così faccio il sindaco itinerante. Esatto, stavo proprio dicendo questo, che invece è molto bello che lei ha detto io sono un sindaco itinerante. Ma le volevo chiedere un'altra cosa, siccome appunto la CGIL in realtà ha un'altra sede, però quello che sostiene dice vorremmo che l'ex Camera del Lavoro rimanga un luogo di partecipazione sociale e democratica aperta a tutti. Esatto. Io quello che le volevo chiedere, siccome ho letto che secondo il business plan, il fatto di avere questo museo, si stima che dovrebbe esserci un'entrata di 300.000 euro all'anno. Io credo che vi possiate mettere d'accordo se parte di questi 300.000 euro vengono usati per quello che chiede giustamente anche la CGIL, che ci sia un luogo di partecipazione sociale democratica aperta a tutti, magari che sia in un altro luogo, oppure che entrambe le cose siano in quel luogo lì, o no? Faremo anche di più, cioè nel senso che la città è ricca, ricchissima di luoghi aperti alla socialità. Proprio in questo momento in Consiglio Comunale c'è un regolamento per la fruizione dei beni pubblici. Noi abbiamo una bellissima villa comunale dove ci sono tantissimi spazi. Momento proloquo del sindaco di Scicli. Sì. Io ho intenzione di fare lì la casa delle associazioni, no? Tipo una casa della cultura. Mm. Quindi spazi per poter discutere ce ne saranno tanti. Ce ne saranno. Senta, però ci spieghi. Discuteremo sulla questione, insomma, del testo. Sì. Ci spiega come funzionerà il museo? Chi incasserà il biglietto, per esempio? Ecco. Allora lì invece questa è un'altra, questa è la questione bene. Cioè, quella è più difficile. Noi tra il comune e la casa di produzione, che poi è la Palomar. C'è in corso una discussione su come questo set lo dobbiamo lasciare, che cosa dobbiamo fare, perché sicuramente sarà un luogo dove in qualche modo anche faremo vedere come si fa una produzione televisiva, ci sarà un merchandising, ci saranno insomma una serie di... Cioè siete in trattativa sostanzialmente. Sì, ma quindi sarà una compartecipazione di incassi tra il comune e la casa di produzione, una cosa del genere. Partecipazione di incassi. Noi abbiamo già una cooperativa di giovani, perché qui abbiamo un giro turistico importante in città, che noi sul turismo puntiamo moltissimo, che gestisce tutti i siti culturali del comune. Ma quanta gente già adesso, sindaco, viene a visitare i luoghi di Montalbano? Le dico solo una cosa, che questo qui è un dato recentissimo, cioè un dato dell'altro ieri pomeriggio. Nella mia stanza, in quella che fu un tempo la mia stanza, che adesso è del questore di Montalbano, sì. Quella del questore di Montalbano, sono entrate, abbiamo fatto un incasso, ecco, lo dico, la cooperativa che gestisce il sito ha fatto in 3 ore di pomeriggio all'incirca 800 euro di incasso di visitatori. Cioè, già adesso si paga un biglietto per andare sì, a vedere. Già si paga, per entrare lì si paga un biglietto, per entrare un biglietto lì e in un paio di altri siti. Quindi insomma, diciamo che in un giorno... uno stesso biglietto per 3 siti o in ogni sito biglietti. Si paga un biglietto? No, lo stesso biglietto per 3 siti. Ah, va bene, vi state montando la testa, ci preoccupa. È il Montalbano Tour. In questo momento mediamente Scicli è diventata una delle mete turistiche più importanti della Sicilia. Ma qual è, sindaco, lo scenario? Ce lo racconti un attimo, noi chiudiamo gli occhi e lei provi a descriverci. Allora c'è il palazzo, quello dove Montalbano sale gli scalini e poi va nel suo ufficio, e quello è la sala di cui stiamo parlando, il palazzo ex Gia. Tra l'altro vorrei aggiungere che diciamo siamo nella via principale della città, che è via Francesco Almino Penna, bellissima, si vede, straordinaria nelle riprese. È il patrimonio dell'UNESCO. In questo momento ci sono ogni giorno centinaia di turisti. Ieri pomeriggio, ieri verso le 7 di sera, non si poteva neanche camminare, insomma, vedere i giapponesi a Scicli, i turisti giapponesi, insomma, vengono per effetto, Montalbano, no? o per il UNESCO? Vengono un po' per tutto, però per in tutto. Effetti il traino di Montalbano, così come di altri... È stato tradotto anche in Giappone, Montalbano? Scusi, sindaco. È stato tradotto anche in Giappone, Montalbano? Non lo so, questo distribuito. So che bisognerebbe saperlo, perché è interessante. Tutto, e no? Poi c'è l'ufficio del questore. Allora, che... poi c'è il comune, in questa strada c'è tra gli altri edifici storici bellissimi, le chiese, c'è il municipio, il comune di Scicli, al primo piano c'è la stanza del questore. A piano terra c'è il set di Montalbano. si consideri, questa che, è una cosa che dico a voi. Quale, sei, quale prima, parte di Montalbano? Quale parte di Montalbano, scusi, nel comune? Cioè, il oltre commissariato, a il commissariato. Ah, quindi il commissariato è dentro il comune? I bassi, è il piano terra del comune. Okay. Io sto facendo un'altra cosa, stiamo facendo un'altra cosa, questa è veramente un'anteprima. Sto trasferendo, sto svuotando di fatto, se ne va, se ne va. Sarà possibile tutto il municipio dagli uffici amministrativi, cioè li sto decentrando. Ma però mi scusi, le posso fare una domanda? Ma è giusto che addirittura l'amministrazione comunale, il sindaco, tutti si debbano spostare perché arriva una fiction? No, no, cioè... non è questo, no, non lo facciamo mica per Montalbano. No. Cioè, noi stiamo veramente puntando sullo sviluppo e sull'utilizzo ai fini turistici. Del sì, ma forse si può svilupparlo ugualmente senza per questo, diciamo, avere le istituzioni che devono abbandonare l'edificio comunale per una fiction. Sarà abbandonato, no? Dal municipio verranno tolti una serie di uffici, tipo che ne so, l'ufficio tecnico, l'ufficio tributi, verranno messi in palazzi sempre comunali, in edifici sempre comunali, più funzionali. Svuoteremo il centro storico di auto, libereremo, allargheremo ancora di più le isole pedonali. Cioè, vogliamo sostanzialmente rendere la città sempre più accogliente, sempre sì, più a misura d'uomo e sempre più sostenibile. Però ma questo è, anche, è bella anche l'idea, sindaco, che lì dove viene girato Montalbano è lì dove Scicli è viva ancora oggi, dove c'è il comune, dove c'è la sala comunale dell'ex CGL. È bello che si discuta, esatto, anche di questo. Quindi è bella questa commistione presente, realtà e fiction. In bocca al lupo, sindaco, grazie per essere stato con noi. Lui andrebbe avanti, credo, per ore a parlare di Scicli, momento proloco del sindaco di Scicli. Questa era la notizia. Il museo di Montalbano contestato al momento da alcuni dirigenti della CGL locale che vorrebbero mantenere quella sala per altre finalità, ma si cerca una soluzione. 800 24 00 24, vi aspettiamo anche per raccontarci quali poster avevate voi nella vostra cameretta di ragazzi e di ragazze. Ragazzini, vai, tra poco. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 9:07, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. 800 24 00 24, telefoni bollenti per i vostri racconti sui poster che avevate in cameretta. Così la come... La nostalgia sì, funziona. Abbiamo raccolto anche noi questa storia che viene dal confronto in TV tra i candidati alle primarie del PD con Michele Emiliano, che ha tirato fuori il poster che aveva in cameretta. Prima Gigi Riva e poi soprattutto Yuri Chechi per la questione della lesione al tendine che gli ha fatto saltare le Olimpiadi. A lui la corsa, la campagna elettorale per la corsa a queste primarie si vota domani. Di lì a cascata tutti i poster di tutti i leader politici, e non solo, però stamattina è tutta per voi, quindi ce n'è una bella. Chiamate! Ce n'è una bella, la nostra collega, lo posso dire, Laura Bettini, che aveva il poster in camera, anche lei, come Matteo Renzi, dei Duran Duran. Hanno fatto strage Duran Duran. Hanno fatto strage, soprattutto di cuori femminili, ma evidentemente non solo, ma la cosa bella è che lei ha raccontato, testuale, che poi è andata al concerto, e dopo il concerto non gli sono piaciuti, ha tolto il poster. Ma quindi l'aveva messo sulla fiducia la prima volta, senza averli mai sentiti. Diceva, ce l'hanno tutti. 800 24 00 24. Adesso però è il momento della nostra classifica delle piccole 5 migliori buone notizie. Si può 5. Allora, 5 notiziole per tirarvi sul morale dopo una settimana di cronaca. Allora, a Empoli arrivano le strisce pedonali illuminate. Saranno strisce con sfondo rosso a terra, un impianto di illuminazione a LED che nelle ore notturne renderanno più visibili ai conducenti i pedoni che ci passano sopra. Salviamoli, questi poveri pedoni. A LED perché si consuma meno, giusto? Anche, tra l'altro, sì. E invece alla quarta posizione, una storia molto bella che inizia triste e poi finisce bene. Le nozze fra Valerie e Alessandro erano state fissate per il 12 novembre del 2016, però le scosse del 28 e del 30 ottobre avevano mandato tutto all'aria, perché il quella terremoto. Esattamente, c'è stata la giornata più nera di Visso, che è il paesino dello sposo. Anche la chiesa dove dovevano sposarsi, la chiesa di Morovalle, era stata danneggiata e quindi il matrimonio è stato rinviato a data da destinarsi. E quindi sono stati avvertiti tutti e 140 gli invitati. Poi cosa succede? Arriva una telefonata misteriosa e improvvisamente il matrimonio si fa. Il 22 aprile del 2017 è stato organizzato e offerto da Claudio De Stefano e da Raffaele Tonino, che sono entrambi originari di paesi distrutti dal terremoto, ma di un altro terremoto, del 76 in Audi. Friuli. Quindi è bellissimo, è un'unione del, fra terremotati. Fra terremotati ed è stato. Ed è molto bello perché dal Friuli sono partiti con quattro furgoni e un camion e lentamente si sono aggiunti anche tante altre persone: Luca, il fiorista, la fotografa, il DJ, tutti insieme, tutti che vengono dal Friuli e per unire queste 11 ditte che sono intervenute, che vogliamo ringraziare perché ci sembra assolutamente un matrimonio simbolo di un'Italia solidale, capace di unire nella gioia due regioni che hanno vissuto due grandi tragedie. Bravi. E adesso sentite qua, al terzo posto, e siamo sul podio, nascerà in Italia a Torino il Ticchettio, lo scandire del tempo per i satelliti europei Galileo, un risultato importante per la ricerca italiana, perché sarà l'Istituto Nazionale di Ricerca e Meteorologica di Torino a sviluppare un sistema di calcolo complicatissimo che dovrà sincronizzare gli orologi atomici a bordo dei satelliti Galileo con la scala di tempo internazionale. Bravi gli scienziati italiani, brava Torino. Vai, secondo posto. Al secondo posto, la villa dei Casa Monica, di cui abbiamo spesso parlato, confiscata un mese fa, finalmente è uscito il bando per assegnare questa villa confiscata al clan Casa Monica è un bando per trasformare circa 600 metri quadri del villino unifamiliare in una dimora della legalità e un luogo di inclusione sociale. Ne siamo molto felici, a darne l'annuncio è stato Nicola Zingaretti con un tweet che in qualche modo parla di noi, perché dice: perché legalità significa lavoro, welfare e libertà, perché si può cambiare. E questo per noi è assolutamente un si può fare. Ci piace ricordare, scusami sì, Alessio, Pio La Torre, che è stato ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982 con il suo autista Rosario Di Salvo, perché è stato lui a ispirare la prima legge sulla confisca dei beni. E questa volta a festeggiare saranno non i Casa Monica, come nel famoso funerale a Roma, vi ricordate? Esatto. Ma i romani. Primo posto, torniamo sulle luci a LED da cui siamo partiti, perché grazie a questa tecnologia una città come Bari riuscirà a risparmiare fino a 1 milione di euro l'anno grazie proprio ai nuovi impianti di luci a LED. Tra l'altro a Roma questa scelta di utilizzare luci a LED aveva suscitato polemiche, il sovrintendente Sgarbi, erano tutti contrari, perché però avevano messo delle luci a LED bianche che fanno un po' effetto ospedale nelle stradine del centro Roma, non stavano bene. L'effetto neon, l'effetto diciamo. Neon. Basta prendere luci a LED gialle, quelle calde, no? Basta scegliere quello e funziona come a Bari. Bravi, complimenti, via! E allora, questo era il nostro Si può fare, cari ascoltatori, 800 24 00 24, siamo con voi e con in particolare i vostri poster. Angelo, esatto, da Novara, buongiorno, benvenuto Angelo. Buongiorno, non so come sentite bene. Benissimo. Oh, perfetto. Insomma, sì, non proprio, però ti sentiamo, vai, ho esagerato, benissimo. Mi piace. Allora, due poster che avevo da ragazzino in camera, condivisa con mio fratello, quindi, dovendo mediare anche i gusti, erano Ken il guerriero, poster gigante. Ken il guerriero? Sì. E questo era famoso. Tuo o di tuo fratello? Di mio fratello, ma comunque un bel poster che apprezzavo anch'io, nonostante tutto. Ken il guerriero, che era un cartone animato? Sì, sì. Certo, ricordiamolo, per chi è un po' più giovincello. E poi? Sì. E poi, di mio avevo Alessia Marcuzzi. Vabbè, un'infanzia disastrata. Ken il guerriero e Alessia Marcuzzi. E rivendichi il fatto che la Marcuzzi fosse tua e Ken il guerriero di tuo fratello. Sì. Beh, già con questo mi recuperi qualche punto. No, vabbè. Okay. Diciamo, altri miti non sono passati da casa vostra, cioè che ne so, qualche grande. No. Ma no, grossi miti effettivamente no, devo essere sincero. Vabbè, miti televisivi, che anni erano, Angelo? Anni 80, 90. No. Metà anni 90. Metà anni 90. Però comunque Alessia Marcuzzi mi piaceva molto per un solo motivo, Lo sappiamo qual è il motivo. No. È esatto contrario, una di quelle che non si è mai scoperta in televisione. Ah, va bene, periodo va dove bene. Comunque erano tutti su Non è la Rai. Però scusami, era questo il motivo per cui ti piaceva? Era questo proprio il motivo, sì, perché non si era mai scoperta? Ma diciamo che era uno dei motivi principali, che non aveva bisogno di scoprirsi per fare carriera. Perché era anche brava, oltre che bella. Grazie Angelo, grazie. Una bella e brava soubrette sulla muri della camera di Angelo e di suo fratello. Con insieme se ti sente la Marcuzzi che la chiami soubrette, secondo me telefona. E che cos'è? No, ho sbagliato? Non so, una presentatrice. Presentatrice. Giuseppe da Ragusa, vai. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Volevo evitare... Buongiorno. Volevi dire messa? No, no, con questo tono poi non è domenica. Tutti della Lombardia, del nord Italia, a venire in Sicilia a visitare il nostro barocco ragusano. A visitare che cosa? Scusa? Il barocco ragusano. Il nostro barocco ragusano. Sì, sì. E si stanno girando gli due episodi di Montalbano, quindi Punta Secca, e poi Ragusa e Scicli. Ho sentito anche. Cioè, ne abbiamo appena il sindaco, ne abbiamo appena. Ma come mai invita solo i lombardi? Perché i siciliani ci stiamo già, insomma. Sì, poi ci sono altre 19 regioni comunque. Sì, no, io invito tutti. Tutti, tutti, Giuseppe. Perfetto, Giuseppe. Ragusa, momento super proloco. Quindi, allora, Scicli abbiamo detto, Ragusa e poi Punta Secca? Punta Secca, che è dove ha la casa Montalbano. Certo. Quella che vedete lì sulla sì. spiaggia. La più visitata. Ma si può fare un tour veloce Scicli, Ragusa, Punta Secca? Sono vicine? Sì, sì, certo. In tre ore lo si può fare si fa il tutto. Giro. Scicli, Punta Secca, Ragusa e poi visitare anche Comiso, che è molto caratteristica. Perché Comiso? Sono stradine dove non si può andare in macchina, delle scalinate un po' particolari. Che è il paese di Gesualdo Bufalino o sbaglio? Bravo, bravo, sì, esatto. È un grandissimo scrittore. Meraviglioso, grazie Giuseppe, scrittore. Momento proloco per la Sicilia. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco dopo il TAR. Questa è Fashion dei Royal Concept. Vi ricordo che trovate tutte le nostre proposte musicali, la playlist di ogni puntata nella pagina, si può fare sul sito di Radio 24. Andiamo a introdurre quella che è stata ed è ancora fino a domani la Fashion Revolution Week, una campagna internazionale che in Italia è curata da lei, una stilista, Marina Spadafora. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei è una grande stilista e soprattutto è coordinatrice per l'Italia di questa campagna Fashion Revolution Week. Di che si tratta? Una campagna che vuol far andare d'accordo, diciamo così, la moda e i diritti, insomma, etica ed estetica. Possiamo andare avanti così con questi titoli. Praticamente si tratta di svelare un po' quello che è un po' il segreto di Pulcinella, purtroppo, della moda. Sappiamo che spesso dietro a grandi campagne, grosso a grandi marche, ci sono però lavoro minorile, lavoro sottopagato in paesi in via di sviluppo, ma non solo, lavoro nero. E allora che cosa si è pensato di fare da un po' di anni a questa parte, Marina, per cambiare le cose? Bene, grazie intanto di avermi sul vostro programma. Fashion grazie Revolution, a lei. Fashion Revolution nasce nel 2013 dopo il crollo di una palazzina in Bangladesh che si chiamava Rana Plaza, che era un nucleo di produzione a basso costo, dove sono morte più di 1000 persone e rimaste ferite 2500. Da quel momento è nata questa campagna di sensibilizzazione dei consumatori prevalentemente, sì. e oggi siamo presenti in 90 paesi nel mondo. Cosa chiediamo? Chiediamo a chi consuma, a chi compra abiti, di farsi una domanda. La domanda è: chi ha fatto i tuoi vestiti? Sai chi ha fatto i tuoi vestiti? Quindi Who Made Your Clothes è il nostro hashtag. E facciamo eventi. Who Made My Clothes, giusto? Esatto, esatto. No, no, mi scusi, perché essendo un hashtag lo do giusto di modo che tutti possano twittarlo o metterlo su Facebook nel modo esatto, univoco. Sì. Who made my clothes? A questa discussione, tra l'altro, con tanto di foto con capi indossati alla rovescia, proprio esatto, per far vedere l'etichetta. Chiediamo appunto alle persone di indossare la maglietta con l'etichetta davanti, sotto il viso, una selfie e mandarcela. Questo cosa vuol dire? Sembra una cosa... Io così sto guardando semplice. Sì, la mia di etichetta, è strano che ce l'abbia perché io le taglio tutte perché mi danno fastidio. Nel mio c'è scritto Made in China, devo dire. Voilà. Beh, ma, no, ma non è sufficiente il fatto di dire Made in China o sì, nel senso che... È già grave? È già grave che sia fatto in Cina? No, non è questa la questione. No, non necessariamente. Allora, noi sappiamo che ci sono, come diceva lei... Dietro a un abito una cosa molto a poco prezzo, di sicuro nella filiera produttiva c'è stato qualcuno che è stato sottopagato, un'ingiustizia, esatto, e sicuramente anche l'ambiente è stato danneggiato, quindi noi chiediamo, diciamo ai consumatori che loro hanno un grandissimo potere ed è quello dei loro soldi, quindi prima di spenderli, di informarsi, su internet ci sono un sacco di... mezzi per informarsi, tra il resto noi di Fashion Revolution abbiamo fatto questo indice di trasparenza, quindi Transparency Index si chiama, sì? E si può trovare sul sito www.fashionrevolution.org, sì? E questo indice di trasparenza, abbiamo mandato un questionario a molte aziende di moda, quasi tutte, e la maggioranza ci ha risposto dicendoci dove sono fatti i loro vestiti, come sono fatti, se stanno rispettando i diritti dei lavoratori, l'ambiente e tutte queste cose fondamentali. Ma questo l'avete chiesto alle aziende? Sì, sì, abbiamo chiesto alle aziende. Perché poi bisogna controllare che dicano la verità, però, queste aziende. Assolutamente sì, certo, noi abbiamo anche i mezzi per fare questo. Ah, perfetto. E come noi ci sono altri progetti, c'è un progetto che si chiama Project Just e tanti altri. La cosa bella e quello che ci dà speranza è che sì, i giovani... quindi la generazione millennial e Z, veramente stanno facendo molta più ricerca, sono molto più selettivi su quello che comprano, perché vogliono che i loro soldi vadano ad aziende che rispettano certi loro standard. E questo è molto criteri sano. Senta, io so che voi avete, Marina, avete puntate anche su alcune alternative, i piccoli negozi, farsi fare i vestiti, comprare meno ma di qualità, esatto, per esempio. Però sappiamo anche che queste grandi catene che offrono abiti a prezzi abbordabili hanno, come dire, reso anche un po' la moda, la possibilità di, anche magari per chi vuol seguire la moda, di cambiare abiti abbastanza spesso a basso costo. È sempre un rischio, è sempre sbagliato, c'è sempre qualcosa che non va quando io compro una maglietta a 5 euro, a 10 euro. C'è una soglia di prezzo, per esempio, per una camicetta che da indossare, che ci deve in qualche modo far pensare che stiamo comprando un prodotto che potrebbe essere inquinato da quel punto di vista, ammesso che poi il consumatore riesca davvero a fare questo ragionamento, e noi speriamo che si faccia, però sappiamo che questa cosa della moda a basso costo è molto attrattiva. C'è è molto attrattiva perché è una bugia, ci fanno credere di essere molto ricchi perché possiamo comprare molte cose a poco prezzo. Cose che poi purtroppo poi magari non usiamo, no? È vero, o che buttiamo via facilmente. Sì. Ci sono le discariche del mondo intasate di spazzatura tessile. Spazzatura tessile che poi quando viene lasciata all'aperto, io ho delle immagini agghiaccianti di queste montagne di vestiti. Devo testimoniare anch'io che a volte si fanno questi acquisti anche in maniera un po' compulsiva, diciamo. Cioè, esatto, va nel negozio esatto, perché ha voglia di fare shopping, compra tre o quattro magliette, un paio di camicie, poi arriva a casa, non va alla taglia, è sbagliato il colore, poi non me la metto mai, e uso sempre la solita camicia azzurra, sempre bravo, la stessa. Esatto. Ma è tutto molto vero e condivido assolutamente. Però la domanda che mi faccio è come si può colpevolizzare una persona che invece nel momento in cui può permettersi solamente di comprare una maglietta a 5 euro, compra una maglietta a 5 euro. No, noi non colpevolizziamo nessuno. Quello che diciamo è di comprare di meno e comprare meglio. Allora, invece di comprarti 5 magliette a 5 euro, tieniti i tuoi soldi e te ne compri una magari a 25 euro. E poi quando è sporca come faccio? Sto a casa? No, vabbè, dai, adesso siamo un po' estremi. No. solo una. Come diceva lui, la camicia azzurra preferita, che magari anche è stata data dal nonno, che ha un valore, che ha una qualità, sono quelle cose poi che rimangono nel nostro armadio. L'idea è quella di avere cose più di valore, valore sia qualitativo che sentimentale, che noi teniamo di più. È molto... Possiamo fare anche di seconda mano. Ha ragionissimo, guardi. Poco. Secondo me, guardi, veramente io sono d'accordo con lei. È che, per esempio, io la camicia del nonno ce l'ho, è la camicia fatta da un sarto, ma io personalmente non posso permettermi una camicia fatta da un sarto. Quindi quella lì la metto, la tengo e ce l'ho. Però poi io devo andare ad H&M. Dobbiamo chiedere a Radio 24 che ti aumenti i compensi assolutamente, perché dobbiamo fare una camicia nuova per Carlo. No, è un esempio, ovviamente. È un segreto però di Pulcinella, in effetti, questo. Delle case di moda anche importanti, quasi tutte, che appaltano e poi gli appaltatori subappaltano e lì si perde il contatto con le aziende e dietro succede di tutto: lavoro sottopagato, io l'ho detto, lavoro appalti in ribasso, lavoro nero, lavoro minorile. Però a volte anche i grandi marchi, giusto, fanno questo. Esatto, è proprio assolutamente, questo. Assolutamente sì. Quindi non è detto che se io pago tanto il lavoratore non è sfruttato, magari io pago tantissimo, però quei soldi vanno al brand e in realtà il lavoratore è sempre lo stesso cinese che è sottopagato o con meno diritti. Purtroppo questo è vero, infatti noi non siamo solo una campagna social, ma abbiamo anche fatto delle richieste ai governi di questi 90 paesi. Una delle nostre richieste l'anno scorso è stata portata al G7 ed è stata passata come legge. Abbiamo richiesto che le aziende che producono in questi paesi, tra virgolette, a rischio, mettano da parte un fondo per cui se succede una tragedia come quella del Rana Plaza ci siano i soldi necessari per ripagare le famiglie delle persone che muoiono, perché le famiglie che hanno perso i loro cari nel Rana Plaza ci hanno messo anni per essere ricompensate e sono riuscite alla fine? Attraverso Fashion Revolution siamo anche riusciti a far alzare la paga minima in Cambogia. Stiamo riuscendo ad ottenere delle cose in Bangladesh, per cui è una campagna Non solo simbolica, campagna è straordinaria, simbolico, anche di risultati. Non dicevo niente sulla concreti. Campagna. Senta, ma in Italia, Marina, quanto si fa ancora di produzione tessile e quanto invece viene tutto esternalizzato proprio nei paesi dove invece si riesce a spuntare un costo più basso, rispettando anche i diritti, speriamo, nella maggior parte dei casi, ma a volte anche no. Dunque, c'è un fenomeno interessante in Europa, che c'è un po' di produzione che sta tornando da noi. Sta tornando da noi perché ci sono delle cose molto specialistiche che all'estero non riusciamo a fare e quindi l'artigianalità, le sapienze tessili che noi abbiamo da secoli stanno tornando in auge. E c'è anche un altro fenomeno che io trovo aberrante, che sta succedendo in Inghilterra, che il ciclo, diciamo, se una celebrity si mette una camicetta e una gonna un sabato e viene pubblicata dai tabloids, la ragazzina vuole quell'outfit la settimana dopo. Allora, per logistica e tempistica, non si può più produrre in Cina, ma si deve produrre in loco per poter avere in negozio a disposizione rapidamente l'outfit. Ecco, vedi, una volta la Kardashian la settimana dopo, cosa che trovo demenziale. Per cui hanno scoperto che anche in Inghilterra c'è gente. Però è demenziale, però questo contribuisce a riportare. Esatto, dice, è una buona notizia in realtà o sbaglio? Sì, però hanno scoperto dei workshop, dei sweatshop in Inghilterra, ad esempio, dove pagano pochissimo. Ah, hanno portato i cinesi in Inghilterra di modo che entro la fine settimana riescano. Anziché e tra l'altro li fanno lavorare il sabato e la domenica perché il tabloid esce il venerdì e quindi poi bisogna darci dentro. Sto scherzando, le chiedo scusa ovviamente. No, ma è vero, la cosa agghiacciante è che è vero. Comunque c'è una produzione che sopravvive anche in Italia, una produzione di tessile che sopravvive e dice addirittura in qualche caso che sta anche rientrando da fuori in Italia. E poi i nostri tessutai e i nostri filatori sono molto bravi, perché quasi tutti, moltissimi hanno aderito alla campagna di Greenpeace che si chiama Detox Campaign, che vuole entro il 2020 togliere tutte le sostanze nocive dalla produzione tessile. Le più pesanti sono queste tinte piene di metalli pesanti, che sono questi componenti azo, e quindi le normative sia europee che americane vogliono che gli abiti siano tinti con coloranti azo free. ma Greenpeace un paio di anni fa ha mandato i suoi volontari a comprare dalla boutique fino alla grande distribuzione dei capi che sono stati analizzati, sì, ed erano tutti pieni di metalli pesanti. Insomma, di strada ce n'è ancora da fare abbastanza. Noi però, insomma, intanto ricordiamo per esempio l'hashtag Carlo Who Made My Clothes. Esattamente. E questo è l'hashtag che è stato scelto ancora fino a domani, dura questa settimana della rivoluzione nella moda. Noi ringraziamo Marina Spadafora, stilista, per essere stata con noi. Lei è coordinatrice per l'Italia di questa campagna. In bocca al lupo. E le facciamo anche i complimenti, perché per questo suo impegno nel 2015 è stata premiata dall'ONU con il Woman Together Award. Complimenti. Grazie, poi, grazie. Se posso dire un'ultima cosa, se volete trovare abiti che si possono comprare perché non costano tantissimo, che sono Azzo Free, che sono fatti da persone pagate il giusto, visitate le botteghe di Altro Mercato, che hanno una collezione bellissima che si chiama Autor du Monde e che ha gli abiti fatti seguendo tutte queste regole. Benissimo. Magnifico, perfetto. Altro Mercato, di cui parliamo, abbiamo anche parlato altre volte. Grazie, grazie. Marina Spadafora, buona giornata, grazie. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24, e questa che abbiamo appena ascoltato è Spread Your Wings dei Queen, canzone che ci è stata suggerita da Edoardo Borghini su Facebook. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca di dei si può fare in musica, quindi se siete dei compositori, dei cantanti o anche semplicemente degli ascoltatori e vi imbattete in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di si può fare, beh, vi chiediamo di segnalarcela, inviarcela, così noi la faremo ascoltare, la metteremo sui nostri social. Potete inviarci i vostri si può fare in musica alla mail si può fare @radio24.it oppure sui nostri profili Facebook si può fare trattino Radio 24, sul nostro profilo Twitter @si può fare 24 oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini. Microfono chiuso, anche il mio @AleMaurizzi. Oppure gli altri i nostri social, sì, come giustamente io c'ho anche Facebook e c'ho anche YouTube e ad Alessio fa sempre strano, c'ho anche Snapchat. Che fa paura Snapchat, questa paura. Stavo sbirciando tra i progetti di Crowd Me Up e i progetti di crowdfunding di cui parliamo tra poco, che sono molto interessanti anche questa settimana. Allora, giusto il tempo di sentire un paio di ascoltatori al volo prima di andare in pausa, e sentirei Ivan da Milano. Buongiorno, benvenuto Ivan. Buongiorno, grazie. Buongiorno. No, io semplicemente volevo riallacciarmi al discorso del poster in cameretta. Io da buon milanista avevo tra Gullit, Van Basten, Bo Derek e quindi tra i miei miti del tempo erano loro tre. Beh sì, non Kellen Guerriero, ma un po' meglio. Stavo dicendo un trisam, però non so se si può. Sì, anche. Si può, secondo me si può. Anche. Un gioco a tre, così per tradurla. Esatto. Andiamo migliorando, Ivan. Va bene, insomma, vuoi aggiungere qualcosa? Perché qua contano oltre che i personaggi, perché poi è difficile confrontare Van Basten e Nobettega. Cioè, erano epoche storiche diverse. Noi non è che come facciamo una classifica dei personaggi, esatto, facciamo una classifica delle vostre motivazioni. Quindi ci affidiamo a voi. Qual è la motivazione? Vabbè, in qualità di milanista, quasi primi stranieri, esatto, milanista, poi quasi primi stranieri anche non tantissimo pagati rispetto agli stranieri attuali. Erano pagati in maniera più ragionevole. Vabbè, esatto. Poi non credo che tu abbia scelto proprio i casi dei meno pagati. Gullit e Van Basten non mi sembra proprio che fossero due così che venivano a 1,5 milioni di lire, ovviamente, alla settimana. Vabbè, Ivan, resta lì, perché se vuoi puoi giocare con noi a Crowd Me Up, fare da giurato insieme agli altri ascoltatori. Susanna da Siracusa, vai. Susanna, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ci sei? Eccola. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Susanna? Volevo parlare del poster della cameretta. Qual erano i tuoi o il tuo? Beh, il master, a proposito di threesome, era il poster del film che si chiama The Hunger. scusa, ti sentiamo male? Hai un viva voce o qualcosa del genere? No, però ecco, c'è poca linea, c'è poco campo. Adesso prova a ripetere, che poster avevi? Il poster di un film che si chiama The Hunger. The Hunger. Sì. E in italiano? Aveva un titolo italiano? In italiano il Miriam si sveglia a mezzanotte. Patetico. Perché? Ah, no, perché non ti piace, l'hai detto in questo tono perché non ti piaceva. È il film d'esordio di Tony Scott, in realtà, questo. Dai, con questo threesome di attori, voglio dire, David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon. Ah, ok, adesso ho capito. Senti, Susanna, ma poi nella vita tu hai fatto l'attrice, la regista, sei occupata di cinema e teatro o hai fatto tutt'altro? Ho fatto doppiaggio, perché io sono italo-danese. Hai fatto doppiaggio, quindi in qualche modo questo poster ti è stato di ispirazione anche per la tua carriera. Piccola, sì. E mio padre gestiva tutta la casa e la mia cameretta era l'unica con la moquette, mentre in tutto il resto della casa c'era il parquet. E questo cosa c'entra col poster? Com'è? Questo cosa c'entra con il corpo del poster? Perché questa era la mia rivalsa nel dire che io ero capace di guardare al vampirismo, all'estetismo, all'arte per conto mio. Perché è un film di vampiri, questo va ricordato, perché per chi non avesse visto Miriam si sveglia a mezzanotte. Perché quando Miriam si sveglia a mezzanotte fa delle cose evidentemente vampiriche, vampiriste. Grazie Susanna, anche tu se vuoi resta con noi, tra poco Crowd Me Up. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Eccoci qua, anche questa settimana siamo andati a scovare due progetti sulla piattaforma di Apple. Trovate tutti i riferimenti anche sul sito di Radio 24, la pagina di Si Può Fare e a quella di Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. E allora, sono due progetti molto diversi tra di loro, uno riguarda la cucina etnica, uno invece un progetto così un po' di fantascienza, fantafuturismo. Cominciamo. E memoria, e nostalgia. Bravo. Cominciamo col primo progetto, vai. Si chiama Io ti amo Capsula del Tempo. L'artista Antonio Spaneda è alla ricerca di viaggiatori nel tempo. Nell'ambito del progetto, appunto, Io ti amo Capsula del Tempo, le persone vengono invitate a lasciare a se stesse oppure agli abitanti del futuro un messaggio d'amore che sarà svelato nel 2045. Però fra 28 anni, quindi, con 3.000 euro è possibile sostenere il progetto e aiutarlo a crescere anche in Piemonte. Ce ne parla l'artista Antonio Spaneda. Ciao Antonio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie allora per questa opportunità. Certo, un minuto di tempo, anche un po' di più, per raccontare come e perché sostenere questo progetto, Antonio. Allora, Io ti amo Capsula del Tempo è nato come un esperimento artistico con dei bambini di una scuola primaria, con cui ho iniziato un laboratorio non frontale, cioè circolare. All'interno di questo laboratorio è nata proprio l'idea di trasferire nel futuro, nel 2045, i loro messaggi, i loro sogni, desideri, e questo è stato fatto così nel 2045 loro a 40 anni riscopriranno se stessi con tutti i loro desideri, qualcuno sarà soddisfatto, qualcuno un po' meno. Da questo laboratorio è nata la Capsula del Tempo come un oggetto, un'installazione, una scatola, un'opera d'arte per viaggiare appunto nel tempo. Certo. E per farlo è necessario avere dei sentimenti, e quello che ho scoperto con quei bambini è che loro sono amano, ricchi amano di questi sentimenti. Posso testimoniare, due bambine, di 5 e una di un anno e mezzo, ma non c'è. È un'idea, è una bella idea, un'idea classica, questa della macchina del tempo. Assolutamente. È bello che riviva ogni tanto. Ma essendo spostato solo di 28 anni, quello che mi chiedo è, non c'è il rischio di un'enorme delusione, che uno si immagina di fare l'astronauta, per esempio, e poi invece si riscopre che fa magliette per 2,70 euro all'ora? No? Bravissimo. No, perché sì, ne abbiamo appena parlato di magliette, per questo. Sì. No, può essere, infatti queste sono testimonianze che io porto a chi studierà, chi studia il futuro, cioè quelli che... È un rischio che vogliamo correre, conoscere il futuro tenendo a mente il passato è una disciplina che richiede anche questo rischio, il rischio della delusione, va bene. Antonio, grazie, resta con noi e anche i giurati che sono Ivan da Milano, l'abbiamo appena conosciuto, aveva il poster di Boderek. in cameretta. Ah, giusto, li chiamiamo per i poster, secondo me. Poi Susanna da Siracusa, che aveva Miriam che si sveglia a mezzanotte, e anche Raul dalla provincia di Rovigo, che conosciamo adesso. Buongiorno Raul. Buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Qua. Resta concentrato come giurato, poi dopo sentiremo anche il tuo intervento. Intanto conosciamo il secondo progetto di Cloud Me Up di oggi. Si chiama Eco Chef, come dicevamo è un progetto che da 3 anni porta nelle scuole alberghiere e nella sezione alberghiera del carcere di Cuneo prodotti e progetti di commercio ecosolidale provenienti dall'Italia ma anche dal sud del mondo. E c'è anche una parte in cucina dove insieme alle mediatrici culturali gli studenti imparano le ricette di altri paesi e imparano anche l'integrazione attraverso la cucina. Per sostenere la 4ª edizione di Eco Chef servono 5.000 euro. Ce ne parla Anna Cattaneo della cooperativa Colibrì. Ciao Anna, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuta anche a te, un minuto di tempo, poco più, per raccontare tutto di questo progetto. Ok, grazie. Vogliamo sostenere la 4ª edizione di questa iniziativa che, come avete già detto, porta sapori e saperi, tradizioni, incontro fra culture, ma soprattutto fa conoscere il commercio ecosolidale ai ragazzi attraverso i suoi prodotti e i suoi progetti. Ah, così. Ti giochi tutto in pochi secondi, va bene. Avete già detto molto voi. Quali ricompense? Là ti faccio io una domanda. Avete pensato, per chi decide di fare comunque una donazione, un piccolo investimento su EcoChef? Sentivo prima Marina Spadafora parlare di altro mercato. Noi siamo una cooperativa di commercio ecosolidale, socio di altro mercato, per cui abbiamo pensato a tanti premi dell'economia solidale. Ci sono prodotti, tavolette di cioccolato di altro mercato, ma anche abbonamenti alla rivista Altra Economia. Bene, quindi... E più di tutti, diciamo, il più ambito è un EcoTube, che nel nostro caso è un pranzo, una cena in un agriturismo. Certo. Ma come sono andate le altre edizioni di EcoChef? Rapidamente, le altre 3, questa è la 4ª? Sono andate in crescendo e la cosa più bella è che in quest'ultima edizione siamo riusciti a coinvolgere questo gruppo scatenato di mediatrici culturali da mezzo mondo che sono state davvero super simpatiche. Bene, ottimo. Bene Anna, allora cari ascoltatori giurati, quale dei due progetti, Eco Chef o la capsula del tempo? Cominciamo con Ivan da Milano, quale dei due ti ha convinto di più, Ivan? Eco Chef. Tac, così subito, perché? Perché mi piace l'idea di poter amalgamare culture a tavola, sì, certo, i migliori affari a volte si concludono anche a tavola, tra l'altro. Bene, Susanna invece no. da Siracusa, quale dei due progetti ti ha convinto? Non sono stati spiegati. No, non sentiamo Susanna, oggi dobbiamo rinunciare a uno dei giurati perché già prima non si sentiva benissimo, adesso proprio per niente. Allora, tutto... È un attacco alla democrazia questo, ci hanno azzoppato un la giurato. Giuria, cavolo. Tutto è nelle mani di Raul dalla provincia di Rovigo. Raul, quale dei due progetti, EcoChef o la capsula del tempo? Ma io dico EcoChef, più che altro perché tutto quello che è ecosolidale... Tutto quello che si magna... No, sto scherzando. No, tutto quello che è ecosolidale, stavi dicendo, ti ho interrotto. Sì, infatti, secondo me è un po' il futuro questo, ecco. Va bene, va bene. Il progetto mi piaceva di più. Abbiamo due giurati così molto sensibili alle tematiche della equità, però insomma il progetto Capsula del Tempo merita comunque tutto il nostro sostegno e noi ricordiamo che comunque tutti e due i progetti si trovano sulla piattaforma di Eppela, non è che è un concorso, quindi uno vince e l'altro viene eliminato. Anzi, quindi ognuno può fare la propria scelta e decidere a chi donare i propri risparmi. Grazie a Anna Cattaneo di EcoChef, Antonio Spanetta di Io ti amo Capsula del Tempo. Claudio Miap tornerà la settimana prossima. Gli ascoltatori li ringraziamo, li salutiamo. Raul da Rovigo resta in linea se vuole per fare il suo intervento tra poco, dopo il traffico. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Eppela. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, eccoci qua di nuovo con Raul dalla provincia di Rovigo, come annunciato. Raul, tocca a te. Buongiorno di nuovo. Allora, per quanto riguarda i poster, parliamo di inizio anni 90, io avevo il poster a grandezza naturale di Lothar Matthäus. A grandezza naturale? Vabbè che Lothar Matthäus era piccolino, però cavolo. Però era, prendeva tutta la parete. Sì. E poi vicino avevo Michael Jackson. Quindi diciamo che se lei aveva Maradona e Madonna, siamo lì. Mi sembra una grande accoppiata. Infatti. Che anni erano? Inizio anni 90. Inizio Lothar Matthäus, forse anche lo scudetto dell'89 o sì, dopo. Sì, diciamo che io ho cominciato a seguire un po' la mia passione calcistica in quei tempi lì. Però spesso dal padre. Sì, beh, certo, è un classico. Però spesso succede, può capitare, l'abbiamo raccontato, che di alcuni di questi idoli poi magari si cambia opinione, ci si può disamorare. Sei rimasto fedele a Matthäus e a Michael Jackson? Assolutamente sì. Va bene, sì. Perfetto. Allora, Raul, grazie. 800 24 0024. Lo ripetiamo, vi stiamo chiedendo di raccontarci cosa avevate voi, il poster che avevate in cameretta. E poi naturalmente sarà difficile scegliere a chi assegnare il libro di oggi, che è Il medico di se stesso, ve lo dico, di Noboru Muramoto, perché abbiamo parlato anche di sanità e quindi ci sembrava giusto, questo manuale giusto. Pratico di medicina orientale, la medicina orientale, si scoprono nuova delle cose incredibili, rivista Feltrinelli, è qui tutto per voi, però non sarà facile scegliere, perché abbiamo dei personaggi e delle motivazioni. Se il cervellone qua riuscirà a elaborare una risposta entro oggi, se ce la facciamo bene, se no dovete rimanere collegati fino alla puntata di domani. In apertura alle 8:30 vi diremo chi vince. È sempre un piacere ascoltare questo pezzo dei Subsonica, per quanto mi riguarda, liberi tutti. Bella, bella. Allora, spesso pensiamo che una volta chiuse, io lo dico sempre, le porte del carcere dietro ad un nuovo condannato, i problemi siano lì, tutti risolti. Invece non è così, perché oltre alla questione della deterrenza della pena, nel nostro paese c'è la funzione rieducativa. Non dimentichiamocelo, se vogliamo evitare che il carcere diventi un ufficio di reclutamento delle criminalità, dalle mafie all'ISIS, dobbiamo pensare anche a quello che succede dopo. Ci vogliono progetti, noi siamo felici. È la funzione è del la funzione. Carcere ogni volta Italia. Che scopriamo uno di questi progetti, oggi è venuta a parlarcene Liri Longo, presidente della cooperativa Rio Terà dei Pensieri di Venezia. Buongiorno Liri. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, parliamo di un punto vendita, di uno store, come si dice adesso, nuovo, che apre, credo proprio oggi, tra l'altro a Venezia, con prodotti realizzati attraverso il carcere, così? Sì, inauguriamo oggi pomeriggio un nuovo store in centro storico a Venezia, dove può dare l'indirizzo? Sì, sicuramente, si tratta di, si chiama Fondamenta dei Frari, di fronte alla Basilica dei Frari, che è uno dei posti, diciamo, più conosciuti della città. Sono sempre della degli città. Indirizzi un po' particolari a Venezia, siamo, Fondamenta siamo a Venezia, dei Frari. Siamo a Venezia, giusto. Ma Google Maps funziona a Venezia? Google Maps funziona? Si può scrivere Fondamenta dei Frari e trovarlo? Sì, si trova. Ah, Fondamenta dei Frari, San Polo, 2559A è l'indirizzo completo. Perfetto. Va bene, va bene. Quindi l'abbiamo interrotta, Liri, perché ci stava raccontando che oggi in questa sede aprite che cosa? Apriamo un nuovo spazio di vendita esclusivo dei prodotti realizzati in carcere a Venezia dalla cooperativa Rio Terà dei Pensieri. Ed è un progetto nato grazie alla collaborazione tra la cooperativa e un artista internazionale che Mark Bradford, Mark Bradford, giusto, ricordarlo, sì, sì. Mark Bradford è stato incaricato di rappresentare gli Stati Uniti per la Biennale d'Arte di quest'anno, che inaugura il prossimo maggio, e parallelamente al suo progetto artistico ha voluto realizzare un progetto di collaborazione con una realtà impegnata in ambito sociale a Venezia, e abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da lui e quindi di sviluppare assieme. Quindi, se abbiamo progetto. Capito bene, ci mette del grano anche lui, tanto per andare sul concreto? Per andare sul concreto, sì, la sua, diciamo, inizialmente il progetto si concretizza nell'apertura. Ma volevamo ringraziarlo, grazie, giusto per questo, ci dà una mano, sì. Ne sostiene buona parte dei costi, almeno di avvio. Che prodotti sono? Chi li produce? Avremo i cosmetici naturali e biologici prodotti all'interno del carcere femminile della Giudecca. Cosmetici? Ma questo mi sembra una novità. Siccome parliamo spesso di prodotti fabbricati all'interno dei carceri, non sapevo che si potessero anche produrre cosmetici. Sì, la cooperativa ha lavorato nel carcere femminile inizialmente curando un terreno e quindi sviluppando un progetto di agricoltura sociale all'interno del carcere. Sì. Oltre agli ortaggi però abbiamo iniziato a coltivare erbe aromatiche e officinali da cui produciamo estratti naturali che utilizziamo nelle produzioni cosmetiche. Tipo creme al rosmarino. Esatto, rosmarino, salvia, menta, timo, lavanda. Tutto escluso i veleni, direi, nel senso che non credo che a delle detenute venga fatta coltivare la cicuta. No, ovviamente no. No. Il nostro poi è un terreno certificato biologico, sì, sia per gli ortaggi che per gli estratti naturali. Certo. Senta Liri, io ho sempre a cuore questa vicenda qua, no? Perché si dice, si sa che ogni volta che ci sono progetti di questo genere in carcere, le recidive, cioè le persone che poi tornano in carcere dopo, si abbassano drasticamente. Ci sono già delle statistiche, le voglio chiedere, ci sono dei numeri, delle cifre incoraggianti, avete dei casi da raccontarci, insomma, di detenuti coinvolti in questi progetti che per un motivo o per l'altro poi però prendono la via giusta anziché quella che li porta a ritornare poi in carcere? Certo, diciamo che ci sono diversi studi locali, diciamo a livello nazionale, ma anche se non c'è una ricerca, diciamo, integrata, sì, attualmente molto aggiornata. Comunque tutti gli studi che sono stati fatti in diverse regioni o città d'Italia confermano che la recidiva per le persone che intraprendono un percorso lavorativo all'interno del carcere o anche in misura alternativa, che è quella fase, diciamo, di graduale reinserimento nella società libera, per cui non so, i detenuti sono autorizzati a lavorare all'esterno e poi tornano in carcere per dormire, per fare un esempio, chi intraprende questo tipo di percorsi abbassa, diciamo, il rischio di recidiva dall'85% al 10%, anche meno in certi un calo certi vertiginoso, esponenziale. Voglio ricordare anche agli ascoltatori che magari con scetticismo ascoltandoci possono pensare ma non c'è lavoro per chi sta fuori dal carcere, perché dovrebbe esserci lavoro per chi sta dentro. Chi sta dentro il carcere ha anche delle piccole esigenze di comprarsi un pacchetto di sigarette, un libro, un oggetto di abbigliamento, e spesso finiscono per farsi prestare i soldi magari da qualche racket che poi costringe a restituirli in forme che creano dipendenza, e quindi insomma anche a questo a questa esigenza risponde l'idea di dare piccoli lavoretti a chi sta in carcere. Liri, noi dobbiamo salutarla, grazie, ricordiamo l'appuntamento per i veneziani. Grazie, se mille. Vogliono passare, dare una mano. Ci ripeti l'indirizzo, che mi fa sempre ridere a Venezia quando sento, certo, l'indirizzo. Allora l'indirizzo è San Polo, sì? 2559A, ed è Fondamenta dei Frari. Così più facile trovarlo con Fondamenta. Dobbiamo chiudere. Perfetto, vince, grazie mille. Il gioco di oggi ce l'abbiamo fatta. Angelo da Novara, che aveva il poster della Marcuzzi in camera sua perché era l'unica soubrette, l'unica presentatrice donna bella, che però non si spogliava perché era anche brava, secondo lui. Uno così non lo trovavamo. Vince il libro, il medico di se stesso. Appuntamento a domani con Si può fare. Grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Ricella. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini e anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.